follaré il tuo nome nella notte silenziosa e accasarmi all'ombra del tuo corpo nudo sulle tue labbra di violetta conquistare spasimi e croci polpa e argilla del tuo corpo insaziabile raccogliere ogni nostalgia e prima dell'estremo sussulto della carne stendere le mie mani e afferrare le tue nel gioco eterno di desideri mutati desidero accarezzare i tuoi seni profumati e spiare i tuoi silenzi vecchie ancore fissate al suolo degli eventi prima di ritornare al dolore antico, al dolore antico della mia tristezza, mia tristezza. Prima di prendere il cammino rude dei giorni che verranno, dei giorni che verranno. Vorrei sfogliare il tuo nome nella notte silenziosa. Vorrei sfogliare il tuo nome nella notte silenziosa. Per ogni giorno passato il lievito della speranza spero colmi la sete di effimere illusioni liberandomi del tempo che passa già che esiste solo il meraviglioso istante, il meraviglioso istante. Desidero accarezzare i tuoi seni profumati e spiare i tuoi silenzi vecchie ancore fissate al suolo degli eventi prima di ritornare al dolore antico, al dolore antico, mia tristezza, prima di prendere il cammino rude dei giorni che verranno, dei giorni che verranno, vorrei sfogliare il tuo nome. Vorrei sfogliare il